Siamo al telefono con Cappadonia, chitarrista, compositore, produttore, qui in veste di organizzatore. Ora arriviamo anche a questo. Ciao Ugo, come stai intanto? Ciao, buongiorno, sto bene, dai. Allora, dicevamo organizzatore perché il 23 maggio al Covo, qui a Bologna, c'è Elefante Fest, la prima festa della nuova etichetta indipendente Elefante Rec. Intanto, dove e come nasce l'idea di una nuova etichetta indipendente? Allora, l'idea nasce più che altro dalla noia e dalla delusione di quello che si ascolta in questi giorni. Volevo provare a fare qualcosa di nuovo, anche perché inizio ad avere una certa età e vedo che ci sono comunque dei giovani cantautori che faticano a trovare spazio nelle dinamiche moderne della discografia, quindi ho detto, se non lo faccio io, chi lo fa? E ho pensato che 20 anni fa mi sarebbe stato utile avere un'etichetta che lavorasse, insomma, come vorrei lavorare io adesso. Quindi il motto dell'etichetta è fare cose belle in un'epoca brutta. Bene, infatti ad Elefante Fest, appunto, oltre al progetto Cappadonia, che poi è il tuo progetto solista, diciamo, di cui parleremo magari fra un attimo, ci saranno Alessandro Ferretti, Liet e Lucio Anello. Esattamente. Vuoi presentarceli un pochino e dire che tipo di musica ci sarà magari anche durante questa serata? Certamente, allora diciamo che sarà un festival prettamente rock, chiamiamolo nel più classico dei termini, cantautorato rock, ecco. Liet è una cantautrice veneta ed è veramente molto brava, scrive in italiano, ha un sound quasi new wave. Mi piaceva tanto iniziare anche con lei, perché la conosco da un po' e so che ha un grandissimo talento. Lucio Anello faceva parte invece di un gruppo chiamato Bar Ponderoso, e qui è la sua prima esperienza solista, ed è un disco anche questo che mescola un po' elettronica e rock. Il suo live è fotonico. Poi avremo Alessandro Ferretti, e qui posso dire che il 23 maggio, in concomitanza col festival, uscirà il suo primo album. E io posso dirti che il 27 maggio avremo qui a Radio Città Fucica l'intervista a Alessandro Ferretti, quindi ci portiamo avanti. Esatto, diciamo che Alessandro è il più giovane della ciurma ed è anche il ragazzo su cui sto puntando, diciamo, sarà la testa d'ariete dell'etichetta, perché appunto noi iniziamo ad avere un po' una certa età, noi vecchi rocchettari, mentre invece Alessandro è molto giovane, ha registrato e prodotto il suo disco completamente da solo, ma la cosa interessante è che appunto lui è un appassionato di sound vintage, di registrazioni analogiche, quindi il suo disco suona molto un po' fra Brian Wilson e i Beatles del 66, e questa cosa mi ha fatto veramente innamorare della sua musica e ho voluto assolutamente lavorare al suo disco. Il 23, a maggior ragione, sarà il suo release party, quindi una grande festa per Ale. E infine ci sarò io a chiudere la serata con le mie canzoni, ma diciamo che vorrei incentrare di più l'attenzione sui ragazzi, ecco. Ecco, se qualche artista emergente che magari ci sta ascoltando volesse proporre la sua musica a Elefante Rec, come si può fare? Allora, può scrivere direttamente a me su Instagram o a Elefante, c'è il profilo Instagram di Elefante Rec. E poi possono scrivermi direttamente da là, c'è una mail, o anche l'editore, che è Brutture Moderne, e anche lì andare sul sito di Brutture Moderne e proporre il proprio demo o il proprio disco, insomma, siamo aperti a tutto. Tornando sempre a Elefante Fest e a Cappadonia, che sarà un po' l'headliner, quindi il tuo progetto solista, perché esatto. Tu sei stato frontman degli Stella Maris per un po' e hai prodotto già 3 album come solista. Ecco, esatto. Tra il percorso con la band e il percorso solista, quanto è cambiato il tuo modo di fare musica? Parecchio. Diciamo, io ho suonato, oltre che con gli Stella Maris, che era proprio un progetto mio, quindi a cui tenevo veramente tanto, ho scritto le musiche insieme a Umberto Giardini, ovviamente, però quando ti trovi, appunto, mi piace citare questa roba di Noel Gallagher, che dice: fare un disco con una band è come dipingere un pennello tenendolo in 4 mani, no? Mentre invece fare un disco solista hai tutta la responsabilità e anche il piacere artistico di realizzare una cosa che ti rappresenti esclusivamente. Quindi diciamo che sì, cambia molto, cambia perché io sono abbastanza pignolo, diciamo, sulle mie cose, sono anche ho un'idea di suono ben precisa, quindi già so quando vado in studio cosa voglio ottenere, e anche per questo mi affido a musicisti che conosco benissimo, che a loro volta mi conoscono, per raggiungere sempre un risultato che mi piace. Detto questo, tutte le esperienze che ho fatto con le altre band e con gli altri cantautori con cui ho suonato e tuttora suono danno sempre una nuova linfa vitale a quello che faccio, quindi io alla fine assorbo un po' tutto e metto poi anche dentro la mia roba. Questo, la differenza principale è questa. Ecco, il 16 maggio è uscito anche il tuo nuovo singolo, ti chiedo, ti va di raccontarcelo un po', di cosa parla e com'è nato anche magari? Certamente, ci colleghiamo di nuovo al discorso dell'etichetta, perché io avevo questo brano che stavo iniziando a scrivere, però ero un po' fermo sulla strofa, ma sapevo c'era questo riff che mi piaceva tantissimo. Quando ho iniziato a lavorare con Alessandro Ferretti per il suo di disco, abbiamo anche iniziato a scrivere insieme, quindi questa canzone è una sorta, anche se esce a nome mio, è una sorta di collaborazione, l'abbiamo firmata in due e siamo anche andati a registrarla insieme. Insomma, basta ascoltarla per capire che il suono è bello ruvido e vintage, è puro rock and roll, con un testo appunto è una sorta di parodia alla dissolutezza d'Andy. Il motto è: in tempi duri meglio essere dei rammolliti. Io ti ringrazio molto, ti chiedo se prima di ascoltarci appunto il nuovo singolo hai un invito per chi ci ascolta da casa per Elefante Fest, ricordiamo 23 maggio al Covo Club, festa di Elefante Rec, questa nuova etichetta indipendente. Ti chiedo appunto se hai un invito da fare alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori. Certamente, allora l'invito è per il 23 maggio al Covo Club, che tra l'altro è un posto magico per chi ancora non lo conoscesse, Bologna, per ascoltare questi nuovi ragazzi che sono veramente bravi, e poi per chi già è un fan mio degli Stella Maris, insomma di quello che faccio, è un'occasione, forse quest'anno unica, di vedere me dal vivo. Quindi, e poi dico anche questo, il biglietto è veramente irrisorio, 10 euro per vedere quattro band, sarà bello, sarà bello. Perfetto, grazie mille, insomma appuntamento al 23 e in bocca al lupo per tutto e grazie. Viva, grazie a voi ragazzi.